Le luci spente delle due di notte, passa un barbone con le scarpe rotte. La notte qui non è come a Milano o a Roma, sempre pieno di casino. Fra quasi un'ora arriva la nazione, un ferroviere fischia una canzone. Una signora senza suo marito, la guardo bene, solo un travestito. Firenze, Santa Maria Novella sogna, povera ancora di vergogna, sembra lo specchio della sua città. Firenze, Santa Maria Novella almeno mi fa sentire un po' sereno, e il portafoglio non mi ruberà. I primi pendolari la mattina, quest'anno è forte la tua Fiorentina. La colazione con i bomboloni, e guai a chi parla male di Antonioni. Raggio di sole, arriva il nuovo giorno, gente che va giurandoti un ritorno. Perché a Firenze, sulla mia parola, non vedi niente in una volta sola. Firenze, Santa Maria Novella è festa, per lui che va, per lei che resta, per un amore che ritornerà. Firenze, Santa Maria Novella, scusa, spero di farti una sorpresa, quando la mia canzone sentirai. Firenze, Santa Maria Novella festa, per lui che va, per lei che resta, per un amore che ritornerà. Firenze, Santa Maria Novella almeno mi fa sentire un po' sereno, e il portafoglio non mi ruberà. Firenze, Santa Maria Novella è festa, per lui che va, per lei che resta, per un amore che ritornerà. Firenze, Santa